di quello là, di quello là. Lui lo sa come si fa. Tu mi vuoi banale, banale, banale, banale, banale.